get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, siamo Pina, Lucilla e Caterina. Di nuovo con voi per parlarvi di quello che succede nel mondo e di come noi lo vediamo. Quindi passo subito la parola a Lucilla, che vi farà la recensione di un libro particolare. Ciao, il libro di questa sera è E la notte non rimasero divise. Per la cronaca, questo libro è uscito alla fine del 97 e naturalmente, incuriosita, l'ho comprato subito. Diamine, si parla di me. E poi è stato accolto molto positivamente dalla critica di regime. Sulle varie recensioni, l'attenzione appena un poco voyeuristica si appunta sui luoghi e le modalità d'incontro delle lesbiche. Cosa c'è di meglio che saperne di più? Rassicurati sul fatto che le lesbiche stanno riconquistando il ruolo di persone indipendentemente dai gusti sessuali. Per questo potete confrontare di La Repubblica delle Donne del 18 novembre 97. Ancora una volta, la lancetta si sposta sul neutro. Sono una persona, ho diritto di andare a letto con chi voglio, purché rimanga un fatto privato. Nulla viene messo in discussione rispetto ad un sistema di potere che stabilisce, a seconda del proprio tornaconto, quali valori perseguire e dove porre i limiti della presunta normalità o naturalità. Già nel 91, almeno per quello che io ne so, la psicologa inglese Celia Kissinger ammoniva le lesbiche da lasciarsi irretire dalle nuove teorie sull'omofobia. Infatti, ancora una volta, il limite viene spostato. Non sono malate le donne che amano altre donne, ma coloro che mostrano diffidenza o avversione verso questa possibilità. Ancora una volta, la questione non è mettere in discussione l'ordine sociale, ma curare e comprendere chi è malato. Anche in questo caso potete andare a vedervi Donna Moderna di novembre 97. In questo contesto si colloca il libro di Antonella Montano E la notte non rimasero divise, ovvero l'omosessualità femminile in Italia, 176 pagine per 24.000 lire, per la collana Luci ed Ombre. L'ho iniziato con curiosità e l'ho terminato con noia. Una noia mortale per i luoghi comuni e le omissioni che contiene. Il libro vorrebbe essere un vademecum, infatti vengono affrontati con superficialità moltissimi aspetti. Il femminismo, il separatismo, l'omofobia, l'eterosessismo, i ruoli butch e femme, l'abbigliamento, la coppia lesbica, la gelosia, la religione, la maternità, i figli, i soldi, il lavoro, l'amicizia, la bisessualità, il transgender, la seduzione, il sesso, i giocattoli sessuali, eccetera. Insomma, una vera kermesse. Il tutto condito dall'esigenza di normalizzarci. In fondo, che cosa vogliamo, secondo l'autrice? Avere una famiglia. Ed è proprio qui che si sbaglia. Non ci teniamo proprio ad essere omologate e riconosciute all'interno del sistema patriarcale. Proprio noi, le lesbiche, miniamo quell'ordine che vede nella famiglia nucleare e nei generi sessuali l'organizzazione primaria della società, che permette agli uomini di controllare le donne e la prole. La Montano stessa è costretta a riconoscere, suo malgrado, che non ci sono ruoli che tengano, perché proprio le bucce e le femme hanno la possibilità di giocare e di assumere gli aspetti che più gradiscono. Che dire, l'occasione fa da lesbica libera. A tale proposito vorremmo segnalarvi un altro libro che si intitola E la madre, tra l'altro è una pittrice, Dialoghi tra lesbiche. Questo libro è stato edito dalla Felina. La Felina era una casa editrice che attualmente non c'è più, diretta da una donna lesbica. Il libro è stato scritto e ideato da tre donne lesbiche che si dichiarano per l'occasione e che vanno ad intervistare altre donne lesbiche. Dunque, questo libro è fatto in un modo, secondo noi, corretto e racconta la vita e l'esperienza di donne lesbiche da questo punto di vista. Bene, lo recensiremo in un'altra trasmissione e per intanto aspettateci. Vi ricordate questa sigla? Per noi è molto importante, in quanto ci permette di farvi ascoltare della musica lesbica indipendente. Il gruppo di oggi si chiama Kick la Luna ed è un gruppo rock tedesco. Il pezzo è No Compromise, dalla stupenda voce di Jutta Keller. Can't get No, no compromise. Ciao, sono Pina. Volevamo parlarvi stasera dello stupro di Stato, perché se è vero che tutte le donne sanno di poter essere oggetto della violenza collettiva o individuale, da parte anche di padri, zii, fratelli e amici, e che non c'è un'età che metta al riparo, infatti un motto maschile dice da 7 a 70 anni basta che respirino, adesso apprendiamo che lo stupro di Stato non solo viene perpetrato nei cosiddetti paesi in via di sviluppo o in guerra, vede gli stupri di massa delle donne musulmane della ex Jugoslavia, dove l'odio razziale sconfina nell'odio sessista, che è la vera essenza del razzismo, ma anche nella civilissima Italia, addirittura commissionato dall'arma dei carabinieri. Questo è quanto è successo a Franca Rame. Ed a questo proposito vi leggiamo un piccolo stralcio della lettera inviata da Dario Fo al Presidente della Repubblica Scalfaro. E a seguire vi leggiamo un editoriale a firma di Manuela Cartosio dell'11/2/98. Dario Fo. Gentile signor Presidente, i giornali di questa settimana hanno riportato la notizia che alcuni alti ufficiali dei carabinieri della divisione Pastrengo sarebbero i mandanti del rapimento e delle sevizie subite 25 anni fa da Franca Rame, mia moglie, bla bla bla. Ancora, dalle dichiarazioni del generale Buzzo, allora giovane ufficiale della Pastrengo, veniamo a conoscere il suo raccapriccio per l'euforia festante del suo superiore, generale Parumbo, alla notizia dell'operazione stupro andata a segno, quando la nostra denuncia e le cronache parlavano ancora solo di sequestro e pestaggio subiti da Franca. Ed ora l'editoriale di Manuela Cartosio, stupro di Stato. Quando Dario Fo ha vinto il premio Nobel, la TV Nottetempo ha trasmesso il monologo scritto e recitato da Franca Rame per elaborare lo stupro da lei subito 25 anni fa. In quante abbiamo abbassato gli occhi per non vedere, portato le mani all'orecchio per non sentire? Io l'ho fatto, mescolando mancanza di coraggio e tecnica di sopravvivenza. Che quella violenza sessuale, resa più stereotipatamente maschia, dalle sigarette spente sui seni, dai tagli sulla pelle con le lamette, dall'ingiunzione a turno «muoviti puttana, fammi godere», fosse opera di un gruppo di neofascisti, allora non si usava la parola branco, l'abbiamo sempre saputo, come abbiamo sempre saputo che lo stupro di Franca Rame fu una pianificata offesa al suo essere donna e di sinistra. Conoscere nomi e nomignoli di quei sambabilini, ora che il delitto è caduto in prescrizione, cambia poco. Biagio Pitarresi, Angelo Angeli, noto per la passione per i dolci, lo chiamavano il golosone, per le armi e gli esplosivi, un certo Patrizio, un certo Müller, tutta bella gente. La sentenza di rinvio a giudizio sulle versione nera, depositata dal giudice Guido Salvini, aggiunge un particolare in più. Dice che la violenza a Franca Rame, se non ordinata, fu ispirata, suggerita da ufficiali dei carabinieri della divisione Pastrengo che mantenevano stretti e assidui legami con i neofascisti. Lo sostiene uno dei violentatori, Pitarresi, che conferma quel che nell'87 aveva affermato Angelo Izzo, uno degli assassini del Circeo. Dunque, quello di Franca è stato uno stupro di Stato. Dovremmo avere la pelle dura e non meravigliarci. In fin dei conti, sappiamo da decenni che in questo paese ci sono state delle stragi di Stato. Sappiamo che un ferroviere anarchico è entrato innocente in questura per uscirne innocente dalla finestra. E invece ci meravigliamo. Un modo soft per dire che siamo inorridite e, suppongo, anche inorriditi. Perché la giunta alle bombe, ai depistaggi, alle menzogne di uno stupro ispirato in una caserma della Benemerita dà alla storia di questo paese una pennellata sudamericana. Con gli uomini in divisa, in perfetta sintonia culturale, oltre che operativa, con i maschi delle squadre d'azione Mussolini. È troppo anche per la nostra immaginazione. Abbiamo sempre pensato male, molto male, di una parte non piccola di questo Stato. Ci hanno trattato da paranoici e qualche volta ci siamo autocolpevolizzati per i nostri cattivi pensieri. Ora che siamo in età di bilanci, possiamo dire che abbiamo peccato per difetto, non per eccesso. Lunga vita ai carabinieri. Era Aretha Franklin con Respect e noi insieme a lei chiediamo rispetto. E purtroppo parliamo ancora di stupro, a Lecce. Anni di violenza senza essere creduta, anche la madre sotto inchiesta. Il padre la stupra e lei resta incinta. Ha dato alla luce una bambina. Anni di violenza, molestie e sopraffazione. Da quando aveva 6 anni. Il padre padrone ha compiuto l'opera fino in fondo. Il paese, la madre, tutti sapevano, tutti assistevano e tutti tacevano. Fino a quando saranno necessari episodi così cruenti per saltare sulle pagine della cronaca? Fino a quando tutto questo verrà interrotto? Era Mia Martini con la canzone Donna. Che ne dite ora di parlare un po' della stampa di regime, quella che ha pubblicato foto e diffuso i dati anagrafici della prostituta sieropositiva di Ravenna? Beh, a noi dispiace veramente tanto di non avere le foto e i dati anagrafici dei clienti, che poi sono tornati a casa infestando mogli, compagne e forse figlie. Donne eterosessuali, attenzione! Correte il pericolo del contagio senza neanche essere messe in guardia da quel solerte giudice Vittorio Vicini, procuratore della Repubblica di Ravenna, che si è invece preoccupato di salvare i rappresentanti del cosiddetto sesso forte. Tonino Lazzari, il primo della Lega HIV che l'ha visitata, e Gianni Amadori, il presidente, distribuiscono volantini in cui si definisce gravissimo e infamante il gesto del procuratore della Repubblica di Ravenna di diffondere nome e foto della donna. L'importante è salvare i suoi poveri clienti. Andiamo comunque a sentire le dichiarazioni rilasciate dalla prostituta. Ma non è vero che fossero così tanti come dicono, giura la malcapitata. Nessuno era un ragazzino. Tutti sapevano quel che volevano e tutti volevano venire con me senza il preservativo. Io guadagnavo il doppio, Fernando lo voleva, si arrabbiava come un matto se facevo storie e loro mi chiedevano cose che nemmeno sapevo esistessero. Per la cronaca, Fernando era il protettore. Ed era Mariella Nava con il brano Donne Comunque. Vi ricordo che potete telefonarci al 6864201 ogni mercoledì dalle 20 alle 22. Questa è la trasmissione Una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Gli appuntamenti. Vi ricordiamo che il 14 e il 15 marzo si terrà il convegno Legami d'amore nel tempo della libertà femminile, scenario interiore come scenario politico. Il convegno è promosso dal circolo Udi La Goccia di Roma e si terrà presso la sede nazionale e l'archivio centrale dell'Udi in via dell'Arco di Parma 15, Roma. Per informazioni telefonare alla segreteria del convegno ai numeri 70475078 e 57285566 oppure alla Casa Internazionale della Donna 6872130. Sempre il 14 e il 15 marzo si terrà la riunione del Forum delle Lesbiche a Firenze nella sede dell'ARCI in via San Zanobi 54R, telefono 05 47 6557. Ed ancora, dal 10 al 17 aprile e per chi può sino al 24, donne da tutto il mondo a Cuba. Alle donne che desiderano e possono condividere un incontro e un viaggio di solidarietà e scambio con le donne cubane e del mondo per cercare insieme le strade della libertà e della liberazione. La Federazione delle Donne Cubane, insieme a diverse organizzazioni dell'America Latina e del mondo, organizzano a Cuba un incontro internazionale di donne per discutere insieme di economia sostenibile, della partecipazione alla politica e alle decisioni, della salute, dell'educazione, della cultura, della sicurezza sociale, della violenza, della sovranità. L'incontro sarà anche un gesto concreto contro l'embargo economico praticato dagli Stati Uniti. Il convegno si terrà dal 13 al 17 aprile, ma chi lo vorrà potrà restare per conoscere Cuba e la sua gente nelle diverse città e per gioire del mare e della splendida natura. Per questo vi proponiamo due date. Ti aspettiamo, contattaci. Donne Associazione per la Pace, Corso Trieste 36, 00198 Roma, telefono 85262422, fax 85262464. E adesso vi diamo una chicca, se così si può dire. Questa sera iniziamo una nuova rubrica. E siamo donne, anche se siamo lesbiche, ma siamo donne e ci piace la buona cucina. Quindi vi diamo una bella ricetta. Allora, la ricetta è tratta dal libro di cucina di Alice B. Toklas. E per chi non la conoscesse, vi diciamo che Alice è stata la compagna di Gertrude Stein e che questo libro di ricette lei lo ha assemblato nel 1945. Allora, la ricetta è molto dolce, ma soprattutto è promettente. È la torta di frutta Liberazione. E a noi piace, chiaramente, sia la torta, sia la frutta, ma soprattutto la Liberazione. Procediamo. Con un giorno di anticipo, tagliate a fettine 750 g circa di limone candito e 500 g di ciliegie candite. Lavare, asciugare e coprire di brandy. Un chilo circa di uva bianca passa. Fa riposare. Sbucciare, asciugare e tritare 750 g circa di mandorle, far riposare a parte. Il giorno dopo mescolate 500 g circa di burro fino a ridurlo ad una crema. Aggiungete lentamente 500 g di zucchero, mescolando fino a ottenere un composto molto leggero. Aggiungete i tuorli di 12 uova, uno alla volta. Scolate e asciugate l'uvetta. Aggiungerla alla frutta preparata. passare al setaccio 500 g di farina. Infarinare tutta la frutta perché non si appiccichi. Mettere la frutta in un setaccio e togliere la farina superflua. Aggiungere la farina del setaccio alla rimanente e mescolate 2 cucchiaini di cannella, 1 cucchiaino di macis, che non so che è, 1 cucchiaino di noce moscata e 0,5 cucchiaino di chiodi di garofano. Setacciare lentamente la farina nel composto burro, zucchero, uova. Mescolare dopo ogni spruzzata. Aggiungere le mandorle tritate, 1 tazza del miglior brandy e 1/4 tazza di acqua di rose o di fiori d'arancio. Bene, montare le chiare di 12 uova con un braccione e aggiungetele molto piano alla pasta. Poi mescolarci la frutta infarinata, mettere in teglia rivestite di carta scura imburrata. Con queste dosi si possono fare 6 kg di torte. Dunque, capite la liberazione dove sta? Questa è la mia aggiunta. Se voi riuscite a fare tutta questa operazione, a far cuocere 6 kg di torte, beh, se qualcuna ve le compra, arricchite sicuramente, ed è l'altro elemento di liberazione. Cuocere in forno per 4 ore a seconda delle dimensioni della teglia, anzi delle teglie. Prima di glassare la torta bisogna coprirla con uno strato di pasta di mandorle alto 3 cm. Che dirvi? Se non vi prende qualche cosa per il troppo dolce starete molto bene. E per il resto, buon appetito! I left a note on the dresser and my old wedding ring. These few goodbye words. How can I sing goodbye, oh sleepy head? I'm packing you in like I said. Take care of everything. I'm leaving my wedding ring. Don't oh. E dopo la torta, la stupenda voce di Kitty Lang in Don't Smoke in Bed. Beh, ragazze, e non fumiamo a letto. Dunque, dopo aver sognato ad occhi aperti e con l'acquolina alla bocca per aver sentito la ricetta letta magistralmente da Lucilla, a proposito, avete preso nota di tutto? No, perché se vi avanzasse casualmente della torta, come dire, sono pronta a sacrificarmi per la causa, non so se sono stata chiara. Comunque, a parte gli scherzi, avevo ripreso la parola perché volevo mettervi a conoscenza di due notizie che sembrano gettare benzina sul fuoco rispetto al discorso omosessuali si nasce o si diventa. Sembra peraltro che da un po' di tempo la stampa sia catalizzata da questo dilemma. Vi ricordate nelle puntate precedenti? Abbiamo parlato del dottor Hammer dell'Università Genetica Americana, della dottoressa Grazie Ottin, sessuologa italiana, e chissà quanti altri ne usciranno. Oggi, ad avallare la teoria in base alla quale omosessuali si nasce, la notizia viene dall'Inghilterra. Sentite cosa è venuto in mente di fare a Richard Green, un professore che svolge una ricerca su sessualità e giurisprudenza, dividendosi tra l'ospedale Charing Cross di Londra e l'Università di Cambridge. Allora, ognuno di noi ha una particolarità che lo distingue da chiunque altro o altra: le impronte della mano. Bene, il dottor Grimm ha esaminato le impronte di ben 300 omosessuali e, indovinate un po', sia le donne che i maschi omosessuali hanno meno righe, o se preferite scanalature, sulla mano destra. Però attenzione, non tutti i 300 omosessuali analizzati avevano questa particolarità, solo un terzo, vale a dire un centinaio. Bene, prendiamo atto di questa scoperta consolandoci così. Se mai dovessero venire i ladri in casa nostra, potremmo sempre chiamare la scientifica e non rivedremmo mai più comunque ciò che ci è stato rubato, ma almeno potremmo avere la certezza se il ladro era un gay o no, mi sembra fondamentale. L'altra notizia è ancora più carina e abbraccia la teoria che omosessuali si diventa. Ma badate bene, neanche i motivi che elencava Freud, cioè traumi infantili, fissazione del periodo erotico anale, eccetera, sono la causa del manifestarsi dell'omosessualità. Neanche una scelta politica è la ragione di sì tanti omosessuali. La ragione vera è il traffico. Sì, avete capito bene. Proprio il traffico, perché tutte quelle macchine producono inquinamento e tra le sostanze inquinanti sembra ci siano ormoni femminili. Tutto questo provocherebbe negli uomini che ne sono poveri delle modificazioni tipo la diminuzione giornaliera di spermatozoi. Beh, inutile dire che dopo questa notizia ho deciso che non monterò mai una marmitta catalitica sulla mia macchina. Però non ho capito il nesso che c'è tra la diminuzione degli spermatozoi e l'omosessualità. Ma che per caso quando uno è sterile diventa pure gay? A me non risulta. E poi sulle donne, su cosa va ad incidere? Oddio, vuoi vedere che a me che sono lesbica succede il contrario? Tutto quell'ammasso di ormoni femminili. Non diventerò mica cicciolina. Oddio, mi sa che me la monto la marmitta catalitica. A questo punto lancio un appello. Attenzione, attenzione, tassisti e vigili urbani. Chiedete che almeno contrattualmente vi riconoscano l'indennità del gay rischio. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on.